e benvenuti a questa nuova puntata di Indie Radio che viene trasmessa, lo ricordiamo, ogni venerdì su Transizione di Fase, la web radio indipendente. Radio vuole ora dare notizia di un fatto veramente molto triste che è accaduto alcuni giorni fa e che ha trovato anche spazio presso alcuni quotidiani calabresi, però è comparso anche sul newswire di Indie Media Calabria. Ne diamo lettura perché crediamo che simili avvenimenti, che sono molto più frequenti di quello che noi possiamo immaginare, ci danno veramente il polso di quella che è la nostra attuale società. Ormai sempre più gente è pronta a picchiare il prossimo o anche ad insultarlo, a denigrarlo in maniera del tutto gratuita, senza alcuna motivazione. Pensiamo che chiunque compia gesti del genere vada pubblicamente denunciato e, a nostro avviso, allontanato dalla società civile. Quanto accaduto riguarda una persona che molti magari conosceranno e alla quale certamente Indie Radio vuole esprimere tutta la sua solidarietà, tutta la sua vicinanza e tutto il suo apprezzamento per la sua forza nel denunciare quanto accaduto, nella forza dunque che ha avuto il compagno Flavio nella denuncia dei suoi aguzzini, se così vogliamo dire, o meglio di quelle stupide persone che lo hanno senza motivo massacrato di botte. Ma veniamo alla lettura di quanto scrive lo stesso Flavio, che dice testualmente di volersi armare di parola, uno strumento che in pochi ormai, dobbiamo dirlo, sanno utilizzare, ma che è veramente molto forte se ben conosciuto. Oh, es tanzt, das ist der La società crea bestie, il nostro silenzio le nutre. Erano lì, sedute comodamente a tavola in una pizzeria nei pressi dell'università. Le bestie che una settimana fa mi hanno massacrato per strada senza motivo, in tre. I delicatoni ordinavano un'insalata, ben pettinati, curati. Uno di loro di certo lampadato. Io ho il naso fratturato, me lo hanno rotto con pugni e gomitate e da poco ho rimosso i punti all'arcata sopra il cigliare. Mi trovavo lì solo per prendere una pizza da portar via. Dopo avermi visto e aver sussurrato qualcosa sottovoce tra loro, ghignando, il lampadato si è alzato, venendo fuori nei pressi del forno a legna dove stavo aspettando la mia pizza. Lentamente mi è passato vicino, ha dato un'occhiata fuori dalla pizzeria dove era parcheggiata la mia macchina, come a dirmi che la stava tenendo d'occhio. Dopodiché è tornato al tavolo. Li ho denunciati, sono stati identificati e credo che non abbiano apprezzato granché la cosa. Di ritorno a casa, tra rabbia e paura, mi sono chiesto se è ancora il caso di restare qui, vivendo fianco a fianco con questi guappetti da quattro soldi, ma talmente vigliacchi da poter fare qualsiasi cosa se solo hanno la certezza di poter vincere facilmente o di poter scappare al momento giusto. Funziona così. Si massacrano e si passano i giorni seguenti tra ospedali e caserme, a lavare il sangue dalla macchina, a tranquillizzare il pacchettino mentre allo specchio tranquillizza se stesso. Loro nel frattempo vanno dall'estetista, spacciano coca e mangiano insalate. Non c'è una volante a proteggersi in ogni luogo. Gli angoli deserti e bui nelle città ad immagine di questa società, fatta di lustri in centro e giungle in periferia. Sono tanti. Ricordo che ci abbiamo provato tempo fa a spiegare che non servono le telecamere e gli eserciti per garantire sicurezza, ma servono luoghi vivi e sociali, colmi di discussioni e di vigili occhi umani, non di inutili occhi elettronici nel deserto. Ricordo che parlavamo proprio del luogo in cui sono stato picchiato per una ventina di minuti, senza che passasse nessuno per aiutarmi in qualche modo. Ricordo che lo abbiamo fatto invano. Io non ho denaro per permettermi una scorta, figuriamoci, e neanche una porta blindata. Non ho il porto d'armi per autodifesa e dovrei comunque essere davvero incazzato per sparare a qualcuno. E allora ti dici, quasi quasi me ne vado, per paura o per quieto vivere. Hanno vinto. Perché non sei stato il primo e non sarai l'ultimo? E sulle piccole vigliaccherie impunite, le violenze di strada, le sopraffazioni di quartiere e le conseguenti paure ed omertà si costruiscono le grandi mafie e questa società di sudditi e sovrani. Allora no, non me ne vado più. Mi armo di parola. Non conosco nomi e cognomi ed in verità non voglio conoscerli. So che i vivi sanno di esserlo e dovranno guardarsi allo specchio per quello che sono e saranno riconosciuti e derisi per quello che sono. Non parlo solo di quei tre, ma di tutti quelli come loro. Si aggirano per le città come saprofagi, ma a differenza di questi non hanno né un'intimità naturale né una dignità sociale. Io non mi credo né il Falcone né il passato, non state leggendo l'idea fatalista, anche perché non ho a che fare con rime e badalamenti, ma con poveretti che la società ha trasformato in aspiranti cronisti con troppi film di Thomas Milian alle spalle. E del resto, se potessi scegliere, non li metterei in galera. Mi basterebbe che si guardassero allo specchio schifati. Tanta gente in questi giorni, per strada o nei negozi, mi confessa la propria disavventura, esperienza diretta o da genitori, fratelli, amici, quasi come se solo chi ha vissuto qualcosa di simile avesse la pazienza di ascoltare. La mia gente, che avrebbe dovuto avere uno sguardo rabbioso e determinato nei confronti di chi deturpa e condanna con la propria bassezza la nostra terra, che amo più di ogni altra cosa, invece mi guarda con occhi rassegnati e compatenti. No, non me ne vado più. In pizzeria sono passato quasi 3 ore fa. 2 ore fa mi sentivo debole, mentre ora, pur avendo letto solo io ciò che ho scritto, mi sento forte e circondato da miei simili. Allora a voi tre e a tutti quelli come voi dico, venite a massacrarmi ora, anche in 10 contro 1. Potete spaccarmi tutte le ossa, potete sfigurare il mio volto e sfasciare la mia auto. Potete accoltellarmi o spararmi, ma non farete neanche un graffio a quello che ho scritto, a quello che penso, e resterete comunque delle ignobili bestie senza dignità. A tutti gli altri, alla mia gente, imploro di non avere paura, di non restare in silenzio nei confronti delle ingiustizie e delle violenze, di avere il coraggio di vivere liberi, di essere uomini. La firma, come dicevamo, è quella di Flavio Stasi. Beh, sicuramente questo scritto tocca veramente tutti quanti noi, perché forse più di tante altre parole descrive bene la nostra società, le nostre città, fatte di ignobili esseri, li vediamo frecciare sulle loro pacchianissime automobili, li vediamo passeggiare in centro o a girarsi per le periferie a fare storie di varia natura, oppure li vediamo a volte anche fra di noi. Tante volte siamo stati vittime di attacchi ingiuriosi, di minacce vere e proprie. Ebbene, a tutte queste persone ci sentiamo di dedicare lo scritto di Flavio, che ringraziamo veramente tanto per quello che ha scritto. Grazie Flavio, e ci permettiamo di dire, non sei solo. Apriamo adesso la nostra pagina dedicata alla questione dei referendum, i referendum che si svolgeranno, lo ricordiamo ancora una volta, il 12 e 13 giugno prossimi, e serviranno a far sì che il popolo italiano possa esprimersi in merito alla privatizzazione delle acque, della distribuzione delle acque, in merito anche all'uso del nucleare e anche in relazione al legittimo impedimento. Lo ricordiamo, i referendum in Italia sono solo di tipo abrogativo, quindi si chiederà al popolo se vuole o meno abrogare, cioè cancellare alcune leggi, alcune norme della nostra regolamentazione statale. Ebbene, pochi giorni fa il governo italiano aveva visto la promozione della sua moratoria da parte del Parlamento in relazione al nucleare. In altre parole, per un anno o poco più si rimandava l'utilizzo del nucleare. Ricordiamo che il nucleare, con un referendum del 1987, veniva abrogato, quindi il popolo italiano già una volta si è espresso in merito all'uso di questa pericolosissima energia. Ebbene, questa moratoria in apparenza sembrava essere in linea con quanto stabilito da tanti altri governi, europei in particolare, a seguito soprattutto della catastrofe giapponese, ma in realtà, come lo stesso Berlusconi ha pubblicamente ammesso, si tratta semplicemente di una mossa politica per non perdere consensi durante le amministrative, che sappiamo bene ormai come sono andate a finire nelle grandi città italiane, a parte chiaramente quanto avvenuto nella Calabria, ma questo è un altro discorso. E a ogni modo, questa moratoria serviva a non far passare il referendum. Ebbene, leggiamo invece da varie mail list, su vari siti di informazione, che effettivamente la Cassazione invece ha detto sì al referendum sul nucleare. Quindi la Cassazione sancisce la legittimità di questo referendum e dunque garantisce al popolo italiano la possibilità di esprimersi in merito a questa questione. Quindi ci auguriamo che queste mosse, queste manovre veramente basse, di bassa lega, possiamo tranquillamente dirlo, del governo, facciano capire allo stesso qual è la natura del loro futuro. Parliamo ancora di referendum, ma questa volta ci spostiamo in Calabria e vogliamo infatti raccontarvi una storia che abbiamo appreso dal sito del Comitato Natale De Grazia. Ebbene, leggiamo in un comunicato di una vicenda che ci fa riflettere non solo sulla questione referendaria, ma anche e forse soprattutto su quella che è l'aria che ormai si respira nelle scuole italiane e non solo certamente calabresi. Infatti la riforma certamente della Gelmini spinge verso una impossibilità di effettuare un'azione pedagogica realmente libera, quindi nega fondamentalmente al docente la libertà di espressione. Sentiamo spesso questi attacchi ai docenti comunisti, ai cattivi maestri, eccetera eccetera, che a dire della Gelmini e del governo intero non dovrebbero quasi avere spazio nella scuola pubblica italiana, quasi come se avere delle libere idee fosse un reato. E quindi vediamo che cosa succede ad Amantea. Il Comitato Natale De Grazia ha realizzato insieme a una scuola locale un progetto relativo all'acqua, l'acqua come bene è necessario alla vita dell'uomo. Ebbene, come molti di questi progetti, era prevista la conclusione dello stesso con una recita finale effettuata da parte dei bambini, e a un certo punto in realtà, mentre tutto era pronto, la dirigente scolastica pare abbia, non si sa bene per quale motivo, deciso di portare nuovamente nelle aule scolastiche tutti i bambini. La recita dunque è stata annullata, i bambini non hanno probabilmente capito quello che stava accadendo, ma in realtà, come ci informa il Comitato Natale De Grazia attraverso il comunicato medesimo di cui facevamo riferimento, è invece convinto che questa azione sia legata al fatto che la docente, la dirigente, abbia ritenuto opportuno evitare campagna elettorale referendaria. Forse si teneva in una qualche strumentalizzazione da parte della dirigente, non sappiamo. Ad ogni modo, non si comprende veramente per quale motivo si sia arrivato a tanto. Probabilmente si è trattato di un cattivo dialogo fra le parti e si è probabilmente la dirigente non avrà capito quello che stava accadendo. Eppure è strano che si faccia un progetto in una scuola e un dirigente non comprenda che cosa si faccia nella sua scuola. Già questo in realtà la direbbe lunga sul ruolo di alcune professionalità, talvolta interpretate in maniera negativa. Forse la dirigente ha avuto paura di essere attaccata, erano anche presenti nella sala alcuni esponenti del comitato che comunque, come ci informano attraverso il loro comunicato, non avrebbero preso la parola. Infatti a parlare sarebbero stati soltanto i bambini, soltanto gli alunni, resisi protagonisti di un percorso didattico. Quindi negare agli alunni di esprimersi è certamente un fatto molto molto grave. La scuola italiana oggi non è più libera, la scuola italiana oggi è continuamente attaccata, quindi possiamo anche in un certo senso comprendere che cosa passi nella mente di un dirigente che si trova a dirigere una scuola che non è più libera per le varie riforme, per le varie circolari che si aggirano appunto nelle scuole in maniera anche inquietante, circolari spesso contrastanti. Un panorama dunque veramente critico, quello della scuola italiana, che si manifesta proprio con questo episodio di Amantea, che è grave non solo perché nega ai bambini la possibilità di esprimersi, non solo perché nega un diritto costituzionale che è quello della libera docenza, ma nega addirittura l'idea di una scuola libera, pubblica e garantita a tutti, aperta dunque alle idee di tutti. Speriamo che fatti come quello di Amantea non si ripetano mai più, speriamo che la scuola ritorni a essere un baluardo di democrazia e ci auguriamo che la dirigente possa comprendere appieno il senso di questo suo gesto veramente molto molto grave. Parlare della questione referendaria e questa volta vogliamo parlarvi di un avvenimento magari anche piccolo, soprattutto molto scontato se si conosce bene la realtà calabrese, ma è sempre bene stigmatizzare simili avvenimenti. Il 28 maggio scorso infatti è stato presente a Cosenza Alex Zanotelli, che ha parlato innanzi a una folta ed entusiasta platea della questione del referendum, con particolare riferimento all'acqua. Ebbene, il TG3 calabrese ha pensato bene di ignorare la notizia. Pare che un piccolo passaggio, un piccolo riferimento, senza comunque immagini, quindi senza la relativa importanza, sia stato effettuato in una di quelle notturne edizioni del TG3 locale. Ma ad ogni modo con questa azione si manifesta ancora una volta il vero carattere di questa testata giornalistica locale, che continua a ignorare l'informazione pubblica in favore magari di tutt'altro tipo di informazione. Certamente ogni editore sceglie di parlare di un argomento piuttosto che un altro, ogni testata è libera di trattare gli argomenti che preferisce, certamente, ma ci sorprende il fatto che si tratti invece di una rete nazionale pubblica, che invece è legato alla informazione istituzionale, e un'informazione del genere, cioè relativa a dei referendum, dovrebbe essere ampiamente riportata. Invece il CG3, come al solito, ignora tutte queste questioni, e malgrado i sit-in che ci sono stati, come magari qualche affezionato, diciamo così, ascoltatore di Indie Radio ricorderà, infatti noi nella scorsa puntata ci siamo recati al sit-in di protesta sotto la sede RAI, ma malgrado queste proteste, malgrado i comunicati, malgrado l'impegno dei diversi comitati che promuovono il referendum, il TG3 locale preferisce non parlare, ignorare questioni del genere, questioni che ci riguardano un folto pubblico, che hanno visto il coinvolgimento di numerose persone, sono per il TG3 locale degne di nessuna nota. Ci auguriamo dunque che questi atteggiamenti cambino ancora una volta, ma sinceramente, se le cose continuano ad essere così, ci crediamo ben poco, ecco. Quindi non vi resta che ascoltare i mezzi di informazione dal basso, ascoltate dunque Indie Radio, ascoltate dunque Transizione di Fase e leggete anche Indie Media Calabria. Alla sicurezza sul lavoro. Infatti vogliamo leggervi una notizia pubblicata il 1° giugno su Indie Media Abruzzo, e ci parla di una rivolta scoppiata nel porto di Pescara. Infatti è da molti anni che vi sono dei rimpalli circa le responsabilità dei fanghi presenti sui fondali. Ebbene, questi fanghi sono molto pericolosi poiché impediscono lo scorrimento delle barche. Sono pericolosi molto, soprattutto per chi lavora lì, dunque per i marinai, che in questi giorni sono stati appunto ricevuti dal comandante della capitaneria di Porto di Pescara, ma gli esiti di questo incontro saranno stati sicuramente vani. E così i marinai decidono di innalzare delle barricate, quindi con dei cassonetti e delle sbarre di ferro bloccano la riviera a nord e impediscono quindi sia l'entrata che l'uscita all'area attrezzata. I poliziotti, in tenuta antisommossa, li attendono innanzi la provincia. E a questo punto vi è una colluttazione fuori dalla capitaneria di porto, viene addirittura affondata una barra che garantiva l'entrata alla capitaneria, e questa medesima barra pare sia stata utilizzata per accedere alla capitaneria, che viene quindi sfondata nella sua entrata. Però, come spesso accade, la rabbia dei lavoratori, l'indignazione degli stessi per il mancato riconoscimento della loro sicurezza, quindi per le condizioni di vita lavorativa pessime, vengono ancora una volta stroncate con le solite delegazioni che si recano dal prefetto, vengono ricevute e quindi ancora una volta saranno state fatte le solite raccomandazioni, si sarà dunque tentato di calmierare un po' gli animi, ma fatto sta che ad oggi probabilmente ancora non si è trovata una strada che porti alla soluzione di questo problema. E continuiamo a parlare di repressione, non più repressione sui lavoratori, ma parliamo ora della repressione che si abbatte sui migranti, in particolare all'interno dei CIE. Infatti da Indimedia Piemonte leggiamo alcune notizie relative ai CIE di Torino. Infatti una notizia pubblicata il 31 maggio scorso ci informa di uno sciopero della fame svolto da alcune decine di migranti, sia maschili che femminili, che sono giunti a Lampedusa il 5 aprile scorso, quindi fuori dai limiti per essere trattenuti temporaneamente all'interno del CIE. Questi migranti rifiutano il cibo per protesta, infatti non vogliono più rimanere all'interno del CIE e la loro richiesta è ben chiara: o ci liberate o ci rimandate in Tunisia. Nella serata comunque del 31, Indimedia Piemonte ci informa che lo sciopero è stato sospeso. Sappiamo bene che cosa accade all'interno di queste strutture che detengono spesso, al di là dei termini consentiti dalla legge stessa, i migranti privi delle necessarie documentazioni che li fanno dichiarare appunto legali. Gli immigrati irregolari, secondo la legge italiana, devono essere trattenuti nei CIE, ma non questa permanenza all'interno di tali strutture non può andare oltre un certo limite di tempo. Questo però non sempre accade. Infatti su Indimedia Piemonte continuiamo a leggere di un'avventura inquietante di Hassan, un migrante che in tutto è rimasto all'interno di varie strutture carcerarie e CIE per 3 anni e 8 mesi. Hassan è stato finalmente liberato dopo 180 giorni di reclusione all'interno del CIE di Torino. Infatti è stato protagonista di una rivolta che si è avuta nei CIE nel luglio del 2010, è stato trattenuto per molti mesi alla Valletta e, come dicevamo, è stato in totale presente all'interno di queste strutture di detenzione reale o camuffata per 3 anni e 8 mesi in totale. Adesso invece viene liberato, ma ad ogni modo questo episodio, che certamente non è il solo, che certamente non è isolato, ci fa riflettere su come funzionino effettivamente queste strutture. Pare che chi vi entri poi faccia enorme fatica a uscirne fuori, quasi come una macchina tritacarne che ingloba le persone che sono considerate prive di delle necessarie documentazioni, secondo almeno la legge Bossi-Fini. Radio finisce qui, non ci resta che salutarvi e augurarvi un buon ascolto su Transizioni di Fase, la web radio indipendente. Al prossimo venerdì, un saluto a tutti.